se tieni un amore stretto in una mano, non aprirla per cogliere un altro. Io l'ho fatto ed ho perso l'amore, e così son rimasto con una mano vuota a guardare il mio amore ormai troppo lontano. Se tieni una stella stretta in una mano, non aprirla per cogliere un fiore. Io l'ho fatto ed ho perso l'amore, e così son rimasto con il fiore nella mano a guardar la mia stella che saliva lontano. Se tieni un bel fiore stretto in una mano, non bagnarlo nell'acqua del mare. Io l'ho fatto ed ho perso l'amore, e così son rimasto con la mano nell'acqua a guardare il mio fiore. Con la mano nell'acqua a guardare il mio fiore portato via dal mare.